Bravo Giovanni. Benvenuto ad un'esclusiva experience di vacation riservata solo a rapper, slash fashion blogger, slash influencer, slash gente che è andata almeno una volta in televisione. Il suo ragazzo instagrammabile